Radio 24 Reportage. Io lo confesso, sono un bandito fuori dall'ordine costituito. Mi hanno beccato giù alla dogana con 7 chili di marijuana. Come Gesù mi ha... Tutta colpa di Giuda di Davide Ferrario, un film non sul carcere ma nel carcere. Un film che è stato girato e presentato proprio all'interno delle Vallette di Torino. E quindi eccoci con i detenuti della sezione sesta, blocco A, attori per caso. Salvatore Candelieri, che lavora ora al gruppo Abele e cerca un futuro. Non è impossibile, ecco, nel senso, riuscire a tirarsi su di nuovo, ecco, però i problemi sono tanti. Io non ho più voglia di farmi del male, nel senso, me lo sono fatto per troppo tempo e quindi... Sono stanco perché penso di essere arrivato. Arrivi a un punto che dici, boh, non sono gli anni, un po' forse la saggezza, la maturità che arrivi. Ho anche una figlia di 17 anni, io ne ho 43, quindi ho fatto sempre una vita un po' sbandata. Le difficoltà fuori sono tante, nel senso che è difficile trovare, cioè lavoro per delle persone normali, tra virgolette, con un diploma, degli studi. Figuriamoci per gente come noi che come certificato abbiamo solo il certificato penale. Io curriculum non so neanche cos'è, se devo dirgliela tutta, no? Ecco. Però mi rendo conto che a delinquere fuori io andavo solo perché avevo il problema di droga. Perché io ho anche spacciato, mi drogavo e quindi se c'è di droga di mezzo sei portato di nuovo a delinquere. Quindi io sto vedendo che senza droga sto bene, sono lucido, sono anche sieropositivo, certo, ma su sta cosa non mi crea assolutissimamente problema, nel senso la vita continua, va avanti. E penso che mi voglio dare questa possibilità. Di stare bene. Ho trovato l'amore, che non è poco, mi ritengo fortunato aver trovato una donna che ci vogliamo bene. Vado avanti. E adesso stai lavorando, cosa stai facendo? Adesso non sono nella fase del lavoro, nel senso sono ancora in una misura un po' di alternativa, che sono affidato, nel senso ho bisogno sempre dell'accompagnatore, faccio parte del gruppo Abele Cascinatari e quindi sono nella fase che sto facendo delle cose, piano piano arriverà, spero, anche un lavoro per me, ecco, e quindi cerco di andare avanti. Tua figlia lo vedrà il film? Mia figlia certo che lo vedrà, sicuramente. Mia figlia mi viene a trovare dove sono, è tutta presa anche da sta storia, è presa dal fatto che io sto bene, che adesso la seguo un po' di più, perché io non l'ho mai seguita purtroppo per i problemi che ho avuto. Invece adesso ci stiamo vedendo di più e quindi è contenta di sta cosa, che anche in carcere si possono fare delle cose insieme. Aspettate, però dobbiamo assegnare i ruoli, ok? Mimo, cosa ti piacerebbe fare? Io Barabba. Okay. Barabba liberante. Anche i domiciliari va bene. Tu? Io Ponzio Pilato. Marcantonio. Ma c'è Marcantonio? C'è Marcantonio. Sergio? San Pietro! Sant'Antonio da Padova! San Vittore! San Benedetto del Tronto! Ma non è mica un santo! Lo so, ma c'è il carcere, sono stato anch'io! È un casino la Bibbia! Maria Maddalena! Regina Celi! Roby, tu che parte vuoi fare? La parte lesa! E Giuda? Chi vuol fare il Giuda? Ah sì, ho capito, ma un Giuda ci serve però! Nel carcere non vivono solo detenuti e agenti, ci sono coloro che hanno la responsabilità di far funzionare ogni cosa, i due direttori dell'istituto, Claudia Clementi e Pietro Buffa. Una serie di cose che sono state riportate in questo video sono venute realmente. Poi c'è anche però da aggiungere un'altra cosa, che il carcere non è solamente questo. In questo momento noi abbiamo parecchie decine di persone che non hanno neanche una cella, tanto siamo solo affollati. E ovviamente ci sono degli aspetti pesanti, degli aspetti, come dire, di sofferenza, che qua emergono ovviamente in questa trasposizione filmica, personalmente ritengo anche molto bella. Ci sono tanti modi di raccontare le cose. Luciana Littizzetto ha detto poco fa, io sono entrata e ho imparato delle cose, sarebbe giusto che tutti potessero venire a vedere. Questo vale per gli ospedali, per le scuole, per le famiglie, per tutto, qualunque cosa, e fa parte dell'esperienza umana. Qua si fa una grande e bella esperienza umana. La figura del direttore mi è piaciuta, anche se ovviamente come dire, molto artistica. Però questa sorta di saggezza, di equilibrio, di un po' di follia, di disincanto, fa parte dell'esperienza che si fa qua dentro. Sono le doti che ci vogliono? Ognuno interpreta il personaggio secondo quelle sono le sue caratteristiche. Ci vuole equilibrio, saggezza, umiltà. Concorda? Sì, perfettamente. Penso che ognuno poi ci metta quello che è, no? Ognuno secondo le sue caratteristiche. Però quelle caratteristiche che elencava lui sicuramente ci vogliono. Perché le donne lo fanno meglio? Ah, non lo so se le donne lo fanno meglio. Certo è che però, cioè come dire, questo... Perché le donne lo fanno? Chi l'ha detto? Non sempre è così, devo dire. Non sempre non è così. Non sempre. No, anche io penso che non c'entra il genere. Non c'entra la goccia. Però è vero che questo è un lavoro fatto di organizzazione e di relazioni umane, no? E forse nelle donne queste due, no, caratteristiche... Sento. No, però è vero, ci è vuole intelligenza e umanità, è vero. Abbiamo sorriso, però c'è una cosa che non fa sorridere per niente, qua dentro sono i numeri. Questa mattina? 1669. Si dice che non ci stiano comodissimi. Ho detto prima che io ho in questo momento alcune decine di persone che non hanno una cella e che sono ricoverati in locali di fortuna, insomma locali che sono stati adibiti in questo momento a detenzione. Evidentemente non è una detenzione ordinaria, è una detenzione d'emergenza, e siamo sovraffollati, lo sanno tutti, insomma è un dato nazionale. Voi vi occupate di quello che succede qua dentro, però uno dei grossi problemi è il dopo. Voi come vedete la situazione di quello che si fa e che si potrebbe fare dopo? Già c'è molto da fare occupandosi dentro, che poi l'ordinamento preveda che quello che viene fatto dentro abbia una prospettiva sul fuori è altrettanto vero, e anche su questo ci si impegna. Però vorrei anche dire una cosa, che molte persone che sono qua, come si suol dire, sono clienti affezionati, li conosciamo da tanto tempo, entrano, escono. Il problema non è solamente capire cosa succede in carcere, bisognerebbe capire anche cosa succede fuori dal carcere. L'indulto forse è stata un'occasione mancata, no? Probabilmente perché appunto non è stato pensato a quello che sarebbe accaduto il giorno dopo le scarcerazioni di massa, no? Probabilmente se certi obiettivi, certi percorsi, certe situazioni fossero state pensate e disegnate con un po' di tempo, e non ci sarebbe stato poi, no, il rientro. Non è l'arte che ci salva, è la fede. La religione ci rende schiavi, l'arte ci libera. La fede. La poesia. L'obbedienza. La libertà. Vada retro, Satana. Don Iri, ma che si è messa a fare esorcista? Per cortesia. L'arte, la libertà, la fede. Qua dentro siamo in un carcere. Lo volete capire o no? Quella storia del teatro a me non mi ha mai convinto, lei lo sa. Ma ferma una cosa, adesso è una bestemmia. I ragazzi ci tengono. Prove, trucco, costumi. Come mamma fa. Lo spettacolo si fa. E per quanto riguarda le responsabilità mie, ci vai sottoscritto. Signorina, lei... cerchi di essere più responsabile di quanto ha fatto fino adesso. Mi raccomando. Per tutti i direttori, agenti, detenuti, quello che spaventa è il dopo. Quel presente che non permette di non avere un futuro se non, di nuovo, dietro le sbarre. Una realtà che ha colpito anche gli attori professionisti del film, che per settimane hanno vissuto insieme ai detenuti. Una di loro è Luciana Littizzetto, che racconta: entrare e visitare il carcere farebbe bene a tutti. Quello che è spaventoso secondo me è davvero il dopo, perché il dopo è il dopo, il pensare al dopo, no? Perché parlavo con questi ragazzi e uno mi ha detto: adesso tanto poi io esco, e cosa vuoi che faccia? Rubo. E ho detto: beh, la testa di cazzo, rubi. E lui mi dice: ma guarda che io non so fare nient'altro, io so fare il ladro, cioè cosa vuoi che faccia? In effetti, poi tornando a casa ci pensavo e dicevo: in effetti se uno sa fare il ladro, una condanna, perché poi alla fine sono come quegli animali che stanno in gabbia allo zoo, no? Poi arrivano quelli che ti dicono: adesso liberiamo tutti, e li liberi e poi non sanno dove muoiono, e lì è la stessa cosa. Secondo me, se non ci sono davvero dei progetti di reinserimento, anche nelle grandi aziende, insomma, dove appunto c'è più organico, sono venuta qua in macchina e tutte le volte che vengo qua mi perdo, perché non so mai bene qual è la via in cui devo girare. E pensavo, invece c'è gente che non si perde, ma cioè che sembra che abbia il navigatore installato e che finisca sempre qua, cioè non so, come se ci fosse scritto nel DNA. Io ho insegnato tanti anni in una scuola di periferia alle Vallette, cioè qua vicino, e c'erano proprio dei ragazzini che per famiglia, per condizione sociale, per luogo in cui vivevano, eccetera, sembravano proprio destinati a fare questa fine qua. Servirebbe un po' a tutti entrare qua dentro, non proprio come detenuti, ecco, magari anche no, però anche i nostri politici, quelli che tra l'altro dovrebbero esserci e non ci sono. Secondo me è un posto dove si imparano tante cose. Si impara che la vita ha un senso e che bisogna conservarsela e farne tesoro, no? E che le occasioni non sono mai tantissime nella vita e quindi bisogna fare attenzione. E che quando fai una cazzata non c'è sempre qualcuno che ti perdona, cioè la devi anche scontare. È una cosa che noi pensiamo poco, questo, no? Che tanto c'è sempre un modo di rimediare, e invece questa è veramente una vera punizione, secondo me. Qua c'è il programma pasquale, appendilo in bacheca.